Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: le borse nel giorno del via della Banca Centrale Europea a un acquisto. Attenzione, anche qui poi chiariremo che cosa va a acquistare, però detto questo le borse sono tutte negative, ma leggermente negative, o meglio intorno al punto percentuale: meno 0,80 Milano, meno 0,90 Parigi, meno 1,30 Francoforte, meno 0,70 Londra e meno 0,25 l'America. Questo per quello che riguarda i mercati. Faccio notare che tra i titoli in realtà in Italia le cose sono un po' diverse. L'indice oggi non rappresenta molto l'andamento, perché di positivo c'è solo la Popolare Emilia Romagna più 1%, Banco Popolare più 0,70, Finmeccanica più 0,60 come Pirelli e Mediobanca. Telecom, Terna ed Enel guadagnano mezzo punto percentuale. Di negativo invece c'è Mediaset, meno 4,30, World Duty Free, meno 3,80, Unipolsai, meno 3, Saipem, meno 2,90, Prismian, meno 2,70, Mediolanum, meno 2,60 come CNH Industrial, Eni, meno 2,50 e poi il 2,20 lo perde il Monte dei Paschi di Siena. Euro su dollaro vicino a quota 1,28, ma sostanzialmente a 1,2778. Parleremo anche di questo in realtà, però oggi il programma che è partito oggi, inteso come lunedì, è quello dell'acquisto di covered bonds, e da quello che si è capito la Banca Centrale Europea avrebbe acquistato obbligazioni garantite francesi a breve termine. Lo riportano alcune agenzie. I cover bond sono titoli garantiti da attività di valore certo che hanno un basso rischio, alcuni venivano anche venduti negli anni passati, soprattutto ai risparmiatori, e fanno parte del programma di acquisto di prodotti. I più importanti sono gli asset-backed security, gli ABS, i crediti che le banche vantano nei confronti di soggetti che potranno girare solo quelli di alta qualità e con alcune garanzie anche quelli di qualità media alla Banca Centrale Europea. Questo ha come obiettivo rilanciare il credito bancario e stimolare un pochino di inflazione. In realtà le mosse sul mercato, chiaramente dal primo giorno, sono ancora molto deboli, e da questo punto di vista, quando vediamo titoli calare di nuovo il Monte dei Paschi per del 2,30%, non c'entra tanto la BCE nella sua operazione di oggi, quanto i timori e molta speculazione su quelli che saranno i risultati tra gli stress test da un lato e la cosiddetta asset quality review, quindi la revisione di quanto valgono i tuoi punti di forza, le tue partecipazioni, gli asset in senso lato. Secondo varie indiscrezioni, infatti, il Monte dei Paschi risulterebbe nella parte bassa del voto e con una capitalizzazione bassa. In realtà la banca ha emesso un comunicato in cui è molto tecnica la cosa, riferito agli shortfall, ha detto comunque tutte le indiscrezioni non trovano riscontro nella documentazione parziale e comunque preliminare che la banca fino ad oggi ha qui ricevute, quindi qualsiasi dato allo Stato non può che risultare parziale e preliminare. Ma la cosa che è più interessante oggi, a mio avviso, sul fronte europeo non è solo il fatto che la BCE sia partita con la sua campagna di acquisto di, in questo caso, obbligazioni che hanno comunque un basso rischio garantite da attività da valore certo, ma è il doppio fronte Parigi-Berlino. Perché lo dico? Perché da un lato, come avete letto forse sui giornali, oggi il settimanale tedesco Der Spiegel cita un patto segreto che si sarebbe stretto tra Francia e Germania per consentire alla Commissione europea di approvare la finanziaria francese, quella per il 2015, quella che dice di fatto non rispettiamo gli obblighi non ce la faremo a rispettare le promesse del passato, quindi per quello che riguarda il pareggio di bilancio, il deficit al 3%, quello che l'Italia invece ha detto che manterrà quest'anno, aspetteremo il 2017. La Francia quest'anno avrà un deficit al 4,7%. Allora, e anche l'anno prossimo sforerà il 4,3 e dice non prima del 2017 potremo stare nel parametro fissato del deficit al 3%. Berlino, secondo queste indiscrezioni, si farebbe garante di una successiva riduzione del deficit. Faccio notare che se così fosse, sarebbe veramente la fine di ogni credibilità di questo patto di stabilità o di stupidità, come lo chiamano alcuni, perché il patto o vale per tutti o non vale per nessuno. Mi spiego, un conto è renderlo flessibile e un conto dare corsie di preferenziali senza renderlo flessibile, quindi mantenendolo rigido e stupido per tutti gli altri. Poi però, un po' come nella fattoria degli animali di Orwell, tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri, e quindi in questo caso tutti i paesi sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri. La Francia, per il suo peso politico, militare, economico, avrebbe una corsia preferenziale. Allora, rendilo più flessibile è una cosa, dare delle preferenze è un'altra. Quindi speriamo che le indiscrezioni del Spiegel siano completamente prive di fondamento. Nel frattempo però c'è stato un nuovo una nuova stoccatina arrivata dal governo francese alla Germania, perché il ministro francese delle finanze Michel Sapin, nella conferenza stampa seguita all'incontro tra i ministri dell'economia e delle finanze di Francia, Germania e Berlino, ha detto sul tema della congiuntura in Europa: abbiamo bisogno di più crescita, il rafforzamento della crescita in Europa è interesse di tutti, della Francia come della Germania. E poi ancora il ministro dell'economia tedesco invece, Sigmar Gabriel, ha detto: attenzione, avremo una chance in Europa solo se le necessarie riforme strutturali saranno accompagnate dalla crescita, servono investimenti che aumentino la competitività, aggiungiamo noi anche in Germania, non servono fuochi di paglia, va bene. Però il ministro delle finanze tedesco Schäuble è tornato: siamo molto decisi a fare insieme tutto quanto possibile per rafforzare gli investimenti nei nostri paesi. A me sembra un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte, con poche cose che si muovono, ma faccio notare che in questo momento tutta la discussione è chiaro che oggi c'era anche un vertice importante tra i ministri di Francia e Germania, ma è tutta una discussione Parigi-Berlino. Tra l'altro, nel giorno in cui la Bundesbank, quella presieduta da Weidmann, fa notare che l'economia tedesca nel terzo e nel quarto trimestre 2014 avrà nel migliore dei casi una crescita contenuta e probabilmente rischia di essere più vicino alla stagnazione che alla crescita vera e propria. I temi di cui ci occuperemo, avevo annunciato venerdì il nostro viaggio che continua tra i manager, amministratori delegati, proprietari di grandi imprese o di imprese che comunque hanno un marchio di grosso valore e possono dare dei consigli, delle analisi su quello che vedono. Avevo annunciato che l'ingegnere Domenicali sarebbe stato nostro ospite, poi la scaletta è cambiata per via anche dello scontro con le regioni, è venuto in diretta il governatore della regione Lombardia Maroni. Oggi ne parleremo e subito in apertura per capire che cosa voglia dire avere un controllo di uno straniero. Ducati è in mano alla Volkswagen, che cosa voglia dire però mantenere un marchio nei mercati internazionali, spostare la produzione sui mercati internazionali, cercando di non spostare invece l'occupazione su quei mercati. E devo dire che la Ducati, da questo punto di vista, la stragrande maggioranza di dipendenti li ha ancora tutti in Italia. Per quello che riguarda gli altri temi, è ovvio che parleremo nella seconda ora della legge di stabilità, sia perché c'è un nuovo attacco dei presidenti delle regioni, il governatore Chiamparino, in quanto presidente dell'associazione che riunisce le regioni italiane, dice: le regioni non si rifiutano di fare tagli, ma stiamo lavorando affinché siano compatibili con l'erogazione dei servizi, e punta il dito di nuovo sui ministeri: facciano la loro parte, una razionalizzazione si impone anche per prefetture e questure. Il presidente dell'Umbria Marini chiede di non toccare coloro che sono più efficienti. Per il governatore Lombardo Maroni addirittura si va verso l'ironia: non sia una legge di stupidità, ci sono margini di trattativa, ma il governo fa muro. E poi c'è la notizia data ieri in televisione, sostanzialmente a Canale 5, dal Presidente del Consiglio Renzi gli 80 euro anche per le neomamme per 3 anni. Tutte le neomamme. Su questo oggi è intervenuta la senatrice del PD, Maria Cecilia Guerra, che è anche una nota economista, dicendo che è un errore perché lo si dà anche alle mamme più abbienti, cioè non va a distinguere sulle fasce di reddito. Questi temi, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Sentiamo proprio Renzi sulle regioni. Sono arrabbiati le regioni, sono arrabbiati i sindacati, sono arrabbiati delle volte i magistrati, sono tutti arrabbiati. Io non penso di avere la verità in tasca, noi facciamo un sacco di errori, però quello che deve essere chiaro è che cambiare l'Italia non è il nostro giocattolino, è 8 mesi che siamo al governo, abbiamo una situazione internazionale difficile, o facciamo uno sforzo tutti insieme per remare nella stessa direzione e finalmente restituire un po' di soldi ai cittadini e alle famiglie, oppure l'Italia non ha futuro e se le regioni sono arrabbiate, gli passerà. Devo dire che per ora non gli è passata e devo anche dire che non solo non gli è passata, ma aumentano anche le tensioni. Una cosa però va detta, a mio avviso, quando Chiamparino dice guardate i ministeri, le prefetture, le questure, ma facciamo una cosa una volta in questo paese, che ognuno si occupa del suo. Ofele fa il tuo mestiere, dicono a Milano, e cioè... Perché lo dico? Perché insomma il ministeri e i vari ministeri coinvolti e il governo si occuperà anche della razionalizzazione delle questure e delle prefetture, però le regioni non è che possono mandare sempre la palla nell'altro campo, iniziano a indicare se al di là della sanità non c'è qualcosa che si possa tagliare. C'è un ascoltatore che mi dice lei sugli ABS non ha ancora capito nulla, perché non studia una volta per tutte i CDO che sono semplici invece che di continuare a dire cavolate. Vabbè, mi faccia capire cos'è che ho tutto sbagliato sull'operazione di Mario Draghi. Ha ragione invece chi dice che nella fattoria di Orwell erano i maiali e ho sbagliato, chiedo venia. Sulle prefetture nessuno dice che non vadano ridotte e razionalizzate anche le prefetture, ho detto solo che ognuno faccia il suo lavoro, per quindi le regioni continuare a dire si può tagliare di più nei ministeri, non toccate noi, sembra sempre il classico benaltrismo, i problemi sono ben altri. I fondi del Piemonte, sì, questa è un'altra vicenda. Comunque, imputazione coatta per una decina di ex consiglieri regionali del Piemonte nell'inchiesta sui rimborsi facili. A giudizio 2 assessori della Giunta, vicepresidente e assessore alle pari opportunità. Attenzione, l'imputazione coatta non è tecnicamente un rinvio a giudizio, ma dispone che la procura, che va chiesto l'archiviazione, chiede invece per gli indagati il rinvio a giudizio. Altre notizie che riguardano la nostra economia, il ministro Padoan ieri è intervenuto, la finanziaria è compatta e tale deve rimanere, se l'economia peggiora comunque non faremo una manovra correttiva, gli 800.000 posti di lavoro, potrebbe essere così, ma addirittura dice Padoan potremmo sbagliarci per difetto. La misura vale per i contratti accesi nel 2015, sì. Quindi si può immaginare che poi spalmati nel triennio siano di quella montagna. Però, ripeto, sono dell'ordine di svariate centinaia, noi possiamo sbagliarci per difetto. Però lei conferma 800.000 in 3 anni, spalmati su 3 anni? Potrebbe essere così. Sì, devo dire che ha ragione un ascoltatore che dice, ma insomma... Perché le regioni per spendere fanno da sole, ma per risparmiare serve il governo? Cosa impedisce alle regioni di mettersi d'accordo da sole sui costi standard? In effetti è quello che modestamente sostenevamo anche noi la settimana scorsa, cioè se la conferenza delle regioni arrivasse di fronte al governo dicendo guardate, noi abbiamo questo progetto, ci siamo messi d'accordo tra di noi se introduciamo i costi standard potremmo fare questi risparmi, cioè facesse già il lavoro invece che dire non riusciamo, perché poi è vero che alcune regioni hanno risparmiato molto di più e ci sono meno sprechi e altre invece devono ancora iniziare a farlo, però se si sentono rappresentate da Chiamparino devono trovare un accordo, se invece non riescono a trovare un accordo perché poi prevale la logica del singolo governatore della regione, allora è inutile che parlino come se fossero un corpo unico, cioè se sei un corpo unico con le stesse esigenze, trovate un accordo, andate dal governo e dite noi abbiamo per noi la soluzione è introdurre i costi standard sapendo che penalizziamo alcuni dei nostri governatori, ma è quella. Se no, se ogni regione va per i fatti suoi, perfetto, ma è inutile che parlino come se fossero un corpo unico. Ancora due dati economici, l'industria Istat, gli ordinativi ad agosto più 1,5 rispetto al mese precedente, ma meno 3% rispetto all'anno, almeno il congiunturale torna a salire, andamento analogo anche sul fatturato industriale, più 0,4 rispetto a luglio, ma meno 2,3% rispetto all'agosto del 2013, continua a pesare il calo dei mercati interni. Il mercato interno, scusatemi, italiano meno 4,4%, mentre va bene il mercato estero più 1,8%, ma non riesce a riequilibrare il calo forte del mercato interno. La vicenda dell'acciaieria Lucchini, questa mattina è stata depositata negli uffici del notaio Morelli di Piombino l'offerta vincolante del gruppo algerino Cevital per l'acquisizione dell'acciaieria. Il rappresentante della multinazionale Farid Tijani ha confermato a Fiom Fime Wim la deposizione dell'atto. Secondo Cevital l'offerta è completa sia sotto gli aspetti finanziari che quelli industriali. Invece si è aggravata la trattativa per la Ariston Termo di Cenga, sciopero spontaneo stamani con blocco stradale all'Ariston Termo di Cenga che è in provincia di Ancona dopo che l'azienda ha disdettato tutti gli accordi aziendali, pause, maggiorazioni, organizzazione del lavoro notturno che avrebbero dovuto entrare in vigore a gennaio. Il timore che il gruppo Ariston applichi la stessa disdetta poi a tutti i siti produttivi in Italia. E una notizia non buona invece riguarda il boom dei fallimenti. Nei primi 9 mesi dell'anno in Italia sono fallite 11.000 imprese, più 13%, e in media sono fallite 61 aziende ogni giorno, sabato e festivi inclusi, vuol dire due aziende all'ora. Il record storico, ahimè, si è avuto nel terzo trimestre, record negativo storico del periodo, 3.002 fallimenti. Adesso cambiamo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo, continua il nostro viaggio nei settori dei tali industriali, in chi comunque riesce a spostare parte delle vendite, del fatturato all'estero. Abbiamo fatto inchieste, parlato con chi rappresenta la ceramica, la nautica, la meccanica, l'edilizia, l'alimentare, il moda tessile. Oggi parliamo delle due ruote e dell'industria del ciclo e motociclo. Il tentativo, lo ricordo a chi non le avesse ascoltate, è di non tanto di raccontare la singola impresa, c'è già un programma in questa radio che lo fa benissimo e poi sarebbe poco emblematico in questo programma, no, è di capire se in settori così diversi si possono trarre delle regole valide un po' per tutti, parlando direttamente con gli amministratori delegati, i manager o i proprietari di queste imprese. In realtà fino ad ora abbiamo visto che, pur con tutti i distinguo, anche settori che tra di loro non c'entrano nulla, qualche caratteristica simile ce l'hanno, l'importanza dell'export, l'importanza della rete commerciale. Comunque, Ringrazio per averci aggiunto in collegamento l'ingegnere Claudio Domenicali, amministratore delegato del gruppo Ducati. Buonasera Domenicali. Buonasera, salve, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Ducati, per chi non lo sapesse, azienda storica di Bologna, fondata nel 1926, fa parte da un paio d'anni del gruppo Volkswagen attraverso Audi. Ha prodotto 45.000 veicoli nel 2013, che è stato un record storico. Sono pochi come numero, ma dovete anche considerare che la Ducati si posiziona in una fascia molto alta, più di mezzo miliardo di giro d'affari, 560 milioni, e quasi 1.300 dipendenti, la maggior parte dei quali è appunto Bologna, 1.000 addetti e 40.000 veicoli prodotti. Poi in Thailandia ci sono quasi 100 dipendenti per 4.000 veicoli assemblati, e in Brasile 890 dipendenti, scusate, 890 veicoli assemblati. Allora, le moto Ducati infatti vengono vendute soprattutto negli Stati Uniti, un quarto quasi del totale, in Italia l'11%, Germania anche lì un 11%. L'Europa conta per il 50% nell'export della Ducati, e l'Asia e Sud America per il 26%, il Nord America per il 25%. La prima osservazione, ingegnere Domenicali, è molto semplice: anche voi, come altri settori che non c'entrano nulla con voi, penso alla nautica, penso al vino e all'agroalimentare, avete ormai una predominanza dall'export. Beh, certamente il nostro è un marchio totalmente internazionale, le competizioni ci hanno dato un grandissimo risalto per questo, e quindi anche lo sforzo che abbiamo avuto proprio negli ultimi anni è stato quello di cercare di compensare, e ci siamo riusciti oltre misura, il calo che avevamo sul mercato interno, proprio aprendo sempre di più la strada alla internazionalizzazione dell'azienda. Ecco, tra l'altro, voi come settore delle due ruote, qui parlo in generale, gli ultimi dati che abbiamo visto dell'ANCMA, che è l'associazione che riunisce il ciclo e il motociclo, beh, gennaio-settembre vi sono state 134.000 immatricolazioni, più 1,5%, ma nel settore moto, quello che interessa a voi, si è a un più 3,6% in Italia, 48.000 veicoli, nel settore scooter più 0,4%. Detto così, sembra un anno tutt'altro che negativo per voi, certo che venite da anni di docce fredde e non da poco. Beh sì, è certo che i numeri ormai sono talmente piccoli, il mercato è ben meno della metà di quello che... È un 50% ancora sotto il livello 2007. Perfetto, e quindi sì, è chiaro che c'è un mini rimbalzino, ma diciamo che la situazione è ancora molto molto difficile. Ecco, quanto siete riusciti a compensare con l'export il 50% in meno di vendite italiane? Beh, l'abbiamo overcompensato, perché noi, quando il mercato era oltre il doppio, vendevamo attorno alle 40.000 moto, e oggi siamo a 45, quindi quello che siamo riusciti a fare negli Stati Uniti, in Asia, in Thailandia, in Brasile, ha overcompensato le perdite che abbiamo avuto in Italia. E questo è purtroppo, per fortuna, il filo rosso, il comune denominatore di tutte le interviste che stiamo facendo, ripeto, in settori diversissimi tra di loro, cito anche le ceramiche da questo punto di vista, e settori che vanno dal Made in Italy più classico, settore ad alto contenuto tecnologico. Mi dico una cosa però, le difficoltà più grosse, o meglio, se lei dovesse dare un consiglio a tutte le imprese italiane che chiaramente non hanno la forza di un marchio come il vostro, che corre appunto il MotoGP e quant'altro, però che hanno l'esigenza di aumentare l'export, 2-3 consigli anche alla luce degli errori magari che avete fatto. Beh, certamente bisogna muoversi tantissimo, purtroppo è una cosa molto faticosa, non credo che non ci sia una scorciatoia su questo, e bisogna non avere, credo, nemmeno paura di fare errori. Noi ormai abbiamo aperto in tutti i mercati principali, gli ultimi sono stati la filiale che abbiamo aperto in India e in Brasile. Certamente la cosa più importante sono le persone che presidiano i mercati locali. Noi, dove abbiamo avuto problemi, è perché non avevamo una persona della qualità adeguata. Si fa presto, normalmente lo dicono tutti, che le aziende sono fatte da persone, ma purtroppo quando si è così lontani, alla fine le cose contano ancora di più, perché avere persone di fiducia che sappiano interloquire adeguatamente con l'azienda, spesso quando si apre un mercato nuovo è quasi una cosa di frontiera, no? È quasi una si è un prima linea, proprio in modo molto diretto, bisogna sapere risolvere i problemi più disparati, da quelli legali a quelli logistici, e quindi serve una grande capacità di interloquire con l'azienda. Quindi il primo consiglio è quello di mettere lontano dall'azienda le persone migliori che si hanno, perché... che può sembrare un paradosso, perché per come siamo abituati a concepire l'impresa in Italia nei decenni, uno i collaboratori più validi si dice appunto me li tengo stretti, che vuol dire anche fisicamente me li tengo attorno. Lei sta dicendo, visto che ormai il mercato italiano è un mercato sempre meno importante, diciamo così, e il mercato dell'area euro è un mercato domestico, se devi mandare qualcuno in India, in Brasile o in Cina, ci devi mandare la persona migliore che hai. Eh sì, anche perché i tassi di crescita sono i più alti in assoluto, il potenziale è straordinariamente alto, e quindi se poi si parte davanti agli altri, il vantaggio si accumula nel tempo. Quindi questa è una cosa che per noi ha funzionato molto. La seconda parte che è molto importante in questi mercati è controllare molto bene il capitale circolante, perché comunque l'assorbimento di cassa necessario per far partire un mercato è spesso alto, e quindi si rischia spesso di andare incontro agli assorbimenti di cassa che, se non ben pianificati, possono essere molto difficili. Allora, ingegner Domenicali, resti con noi, perché poi con lei vorrei parlare anche degli accordi che avete raggiunto dentro a Ducati. Se non ricordo male, a fine settembre, il turno domenicale, chiaramente col cognome che ha, vabbè, la battuta faceva schifo, però dico accordi che vanno sotto la logica dell'accordo di secondo livello, l'accordo aziendale. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e con nostro ospite in questo momento l'ingegner Claudio Domenicali, amministratore delegato del gruppo Ducati. Allora, ingegnere, al di là dell'importanza che lei ricordava poi di mettere, guardate che sembra una cosa banale, ma mettere nei paesi chiave i migliori uomini è quasi una violenza psicologica che tu fai, perché li vorresti avere accanto a te in azienda, invece devi mandarli a Shanghai, devi mandarli a New Delhi o a Rio, e molte imprese che anche noi conosciamo hanno commesso l'errore di mandare lì magari qualcuno di volontaroso, ma non di così formato, bravo e magari utile, perché si sono tenute le persone più brave, formate e utili accanto a sé. Ma sì, no, un attimo solo, non era su questa la domanda, però la cosa che mi interessa sul fronte Ducati è anche un'altra. Ed è questa, il fronte interno, e cioè voi, siamo in periodo di Jobs Act e di molte polemiche sul Jobs Act, avete innovato anche in tema di accordi di lavoro. La parte, se ben capito, però me lo confermi, del reparto di Bologna che produce alberi a motore lavorerà anche la domenica. Ora vorrei capire, ingegnere, avete avuto resistenze? Perché mi sembra che l'accordo sia stato votato a grande maggioranza. E poi, insomma, la domenica perché? Perché la domanda è più alta del previsto? Ma sì, una parte per quello, l'altra parte perché ovviamente l'efficienza del sistema è più alta, perché certo, ovviamente gli ammortamenti vengono utilizzati meglio, e quindi il costo del pezzo ovviamente scende e lo stabilimento è più competitivo rispetto agli stabilimenti fuori dall'Italia. Quindi noi con questo sistema siamo riusciti a unire un aumento della capacità produttiva e una diminuzione del costo pezzo, cosa che rende lo stabilimento di Borgo Panigale, sul quale noi vogliamo continuare a investire e vogliamo far continuare a crescere, più competitivo rispetto agli stabilimenti fuori dall'Italia, e quindi più in grado di mantenere una quota parte di lavoro che è importante, cui noi teniamo in modo particolare. Ma il consiglio è secondo me quello di parlare molto trasparentemente delle cose e di far vedere alla nostra controparte, che sono stati il sindacato con cui abbiamo discusso, molto, molto direttamente, senza tanti giri di parole, quelle che è la realtà delle cose. Cioè, noi siamo in un sistema in cui io dico che l'informazione è sempre disponibile in qualsiasi posto del mondo a tempo zero e a costo zero. E questo ha cambiato totalmente la competizione fra stati o fra nazioni per mantenere i posti di lavoro sul territorio. E quindi siccome viviamo in un contesto globale in cui la logistica è molto semplice, e quindi trasportare le merci da una parte all'altra del mondo è ragionevolmente, non dico una commodity, ma abbastanza, siccome il costo dei fattori produttivi è molto diverso, e quindi viviamo con nazioni come l'Asia, in cui abbiamo dei costi di manodopera che vanno dai 2, 3, 5 dollari all'ora o 8, e quindi ben diversi dai 25 o 30 euro all'ora che viviamo noi o dei 40 o 45 che vivono in Germania. Certamente la competitività va cercata su altri temi, uno dei quali è il massimo sfruttamento degli impianti. Tra l'altro, questo, prego. Credo che il consiglio è che noi siamo riusciti però a mettere in prima istanza la soddisfazione delle persone che lavorano, perché noi abbiamo cominciato questo sistema di turnazioni con un brindisi fatto con tutti, perché le persone che lavorano fanno 3 giorni di lavoro e 2 di riposo, vengono in fabbrica 30 giorni in meno all'anno, quindi fanno 30 volte in meno all'anno, che è il 10% avanti e indietro da casa, con tutti i risparmi in costi di trasporto e quant'altro, e ogni 3 giorni lavorati hanno 2 giorni di riposo, quindi c'è un sistema comunque di turnazione che anche dal punto di vista della qualità della vita è molto positivo. Quindi mi sembra un po' uno dei casi in cui si riesce a avvantaggiarsene entrambi, se si riesce a un po' spogliarsi dei... Il passo indietro lo devono fare tutti, i lavoratori, i sindacati e anche diciamo, manager, amministratori delegati, proprietari, perché sennò non si arriva a un punto di caduta. O il passo avanti. Sì, il passo indietro per arrivare a un passo avanti, mettiamola così. Un passo avanti che non è un foxtrot, ma quasi. Anche perché voi avete avuto il 71% di voti positivi a questo accordo. Lei ricordava già da 15 a 21 turni settimanali, 3 giorni lavorativi, 2 di riposo, che vuol dire che magari uno lavora lunedì, martedì, mercoledì, poi sta a casa giovedì, venerdì e poi lavora sabato e domenica e poi si riferma altri 2 giorni. Questo è l'accordo che avete raggiunto. Devo dire, nonostante i messaggi che ricevo in alcuni casi, che a me personalmente questa cosa non è che lasci così sorpreso. Radio 24 nella sua modesta struttura lavora per esempio con i giornalisti, ma anche con i tecnici, con gli assistenti ai programmi, su 3 turni almeno, sabato e domenica incluse, Natale, Capodanno, Ferragosto, no? Per cui ci sono, non è, non che so... però fare questa cosa in Emilia Romagna, a Bologna, no, ma non sto paragonando non voglio fare paragoni impropri, dico semplicemente che non mi sorprende la turnazione in cui uno il riposo lo utilizza durante la settimana, perché in tanti lavori è già così, ma non mi riferisco al nostro, mi riferisco a lavori ben più importanti come il medico, il poliziotto, tutti i lavori di assistenza e di emergenza, per cui insomma no, questa è una polemica vecchia che ho con i commercianti. Lei non può sapere che ogni volta che si parla nel mondo di commercio dell'apertura domenicale, alternandola così, sembra che uno rovini la vita privata delle persone. Ho capito, l'importante è capire cosa uno vuole. Vuole stare la domenica a casa fatturando meno o vuole mettersi d'accordo? Credo che quello che è stato compreso in questo momento, e ci hanno aiutato molto proprio la nostra controparte sindacale, cioè, abbiamo impiegato molto tempo, secondo me il tempo serve anche per comprendersi. Quello che ha aiutato molto è quello di aver compreso che il mondo non è più quello che era 5 anni fa. Questo è, e che non è migliore. Io non sto dicendo che sia migliore, non ho detto che questo è il migliore dei mondi possibili. Probabilmente a tutti vorremmo lavorare dal lunedì al venerdì e stare a casa il sabato e la domenica. Totalmente comprensibile. Non ho detto questo, ho detto solo che si possono trovare anche degli accordi che non siano troppo penalizzanti e che comunque prendano atto che quando tu hai una concorrenza del genere, visto che sempre si dice è sbagliato delocalizzare, internazionalizzare sì o no, continuare a rimpiangere il mondo che non c'è più, secondo me non porta da nessuna parte. Poi uno può accusarmi in questo di essere un neoliberista, ma non è così. Ultima parte di Focus Economia della prima ora. Allora, ingegner Claudio Domenicali, qualcuno mi scrive se è Stefano, no, è Claudio, è l'amministratore legato della, che non si è cambiato durante la pausa, della Ducati. L'ultimo aspetto che mi interessa sempre come paradigma della sua esperienza è la presenza del socio straniero. Il controllo della Ducati è passato alla Volkswagen Audi. Mentre abbiamo letto proprio in questi giorni dell'accordo praticamente fatto Mercedes per Agusta. Allora le chiedo un primo giudizio, visto che in questo paese si dibatte molto, sì, mancano gli investimenti stranieri, poi quando arrivano Dio ci vogliono colonizzare. La sua esperienza con lo straniero in casa, chiamiamola così. Io credo che non possa essere generalizzato, quindi può essere un vantaggio o uno svantaggio, dipende fondamentalmente dall'investitore, quindi non credo che si possa trarre una regola generale. Noi abbiamo la fortuna di avere un investitore straordinario, perché è un investitore certamente innamorato del proprio mestiere, è un investitore industriale di lungo periodo, ma soprattutto è il gruppo Volkswagen che gestisce 12 marchi diverse. Sì, io adesso non mi aspettavo che lei criticasse il proprietario, però volevo capire. La paura è che delle volte si perda l'identità. Non ne abbiamo parlato nel lusso. Avere un investitore che ha la capacità di gestire marchi diversi e che quindi è in grado di valorizzarli. Allora, l'investimento avviene per la valorizzazione del marchio sul territorio, e quindi per noi è fondamentale lo stabilimento di Borgo Panigale, il fatto di essere in Italia. Questa cosa è un fatto estremamente positivo. Se l'investitore è un investitore di tipo diverso, finanziario per esempio, o anche industriale con una capacità diversa di gestire i marchi, è chiaro che abbiamo assistito negli anni scorsi a un investitore tedesco che ha acquistato un marchio che produceva in Italia e poi chiuso. E oggi queste persone purtroppo non sono più, non hanno più un posto di lavoro. Quindi diciamo ci sono entrambe le due possibilità. Chi era, mi scusi, l'investitore tedesco, perché non mi viene in mente? Beh, insomma, diciamo che era bavarese con un marchio bianco-azzurro. La BMW? Ah, ho capito, adesso ho capito l'operazione. Sì, certo, perché il timore vero non è tanto i soldi, vanno benissimo, è che si perda l'identità, no? Che tu diventi. È un tema che abbiamo sollevato molto anche nel settore del lusso, quando i francesi hanno fatto shopping importanti in Italia, il tema era: ma resterà la specificità quindi italiana? Una risposta onesta è dipende. Bene, e invece teme molto l'ingresso della Mercedes in Agusta? Ma io credo che tutti i concorrenti vadano rispettati, e quindi un concorrente in più è certamente problema in più da gestire, dall'altra parte è anche un'opportunità, perché nel momento in cui si può continuare a far bene è un'opportunità in più per dimostrare che stiamo riuscendo a far bene il nostro mestiere. Noi abbiamo un piano di investimento molto forte, crediamo molto nelle nostre competenze, nelle nostre capacità, abbiamo un lavoro di cui abbiamo parlato poco, ma che è il lavoro che ci ha consentito di essere qua, oltre alla parte di internazionalizzazione, che è un fortissimo sviluppo tecnologico e di innovazione di prodotto che continueremo a fare nel tempo. Abbiamo un'azienda che è profittevole e redditizia, che è una condizione sine qua non, indipendentemente dall'investitore, per poter prosperare nel futuro. È chiaro che tutte queste condizioni non sono semplici da interiorizzare, e quindi forse diciamo per altri servirà un po' di tempo. Ma a lei interesserebbe andare a lavorare all'Agusta? Ma non vedo proprio perché. Vabbè. So benissimo dove sono. Grazie all'ingegner Claudio Domenicali, amministratore delegato del gruppo Ducati. Arrivederci, salve a voi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa e poi passiamo alla manovra. Meno 0,86% il finale di Piazza Affari, meno 1% Parigi, meno 1,50% Francoforte, e meno 0,70% Londra, meno 0,15% l'America. Oggi è il giorno in cui la Banca Centrale Europea ha iniziato a comprare i CDO, e la prima parte insomma dell'operazione che riguarderà anche gli ABS, ma si parla ancora molto in borsa di stress test. Andiamo con i titoli prima di tutto. Banca Popolare Emilia Romagna più 1,44%, Banca Popolare più 1, Mediobanca più 0,90, Autogrill più 0,60, come Telecom mezzo punto di rialzo per Azimut e per Pirelli, Finmeccanica più 0,40 come Fiat Chrysler. fronte opposto, Mediaset meno 4,30, World Duty Free meno 4, Unipolsai meno 3 e anche Prismian, Saipem meno 2,90, CNH meno 2,70 come Mediolanum, Eni meno 2,20, Tods meno 2% e Moncler meno 1,90, Monte dei Paschi meno 1,88%. Allora, i cover bond che avrebbe acquistato oggi la Banca Centrale Europea, cover bond sono obbligazioni garantite a breve termine, garantite da attività di valore certo, che danno un basso rischio di solito, e dicevo ne avrebbe comprate di francesi. E tra l'altro questa è parte del programma di giugno, non l'ultima indicazione arrivata a settembre che riguarda anche gli ABS. Però sulle banche pesa ancora il dubbio su quale sarà il risultato degli stress test e della cosiddetta asset quality review. Come facciamo ogni tanto, oggi ospite nostro un gestore, o meglio responsabile di investimenti di Antiglia SGR, Andrea Cuturi, buonasera. Sì, buonasera. Dunque, non abbiamo, mi sbaglierò, visto grossissimi movimenti, tensioni, la scadenza era di quelle da segnarsi sull'agenda, lunedì inizia la BCE, a parte alcune indiscrezioni di agenzia sul fatto che avrebbe comprato covered bond francesi, non mi sembra che questo abbia scosso molto il mercato. Secondo lei è pesato più l'avvio dell'operazione cover bond o ancora le indiscrezioni, a mio avviso anche molto speculative, su quello che sarà l'esito degli stress test per i gruppi bancari europei? Ma direi che il movimento si è visto venerdì su un annuncio da parte di un membro del board della BCE che il programma sarebbe di fatto partito oggi, quindi da questo punto di vista il mercato si è mosso già venerdì e oggi consolida un po' quel movimento molto marcato che abbiamo visto nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda il tema asset quality review e stress test, sono stati prodotti alcune tonnellate di carta e di numeri, c'è tutto il contrario di tutto, il mercato sconta scenari possibili. Per quanto riguarda il nostro paese, diciamo che io sono fortemente convinto che il nostro paese uscirà, il nostro sistema bancario uscirà a testa alta da questo esercizio, forse una bocciatura, ma chi? Diciamo che, mi scusi? Chi? Basta vedere chi si è mosso peggio di tutti. Monte dei Paschi, secondo lei verrà bocciato? È probabile che questo accada, diciamo, ci sono alcuni numeri che non sono particolarmente favorevoli sull'asset quality review, ma questo è già nei prezzi a mio avviso, nel senso che la banca capitalizza 4 miliardi di euro dopo aver fatto 5 miliardi di euro di aumento di capitali solo pochi mesi fa, quindi è già molto nei prezzi, il mercato sta scontando questo, è possibile, non è sicuro che succeda, ma a mio avviso comunque il sistema bancario italiano uscirà molto forte da questo esercizio, anche perché diciamo, i criteri di Banca d'Italia in termini di gestione della qualità del credito sono significativamente più stringenti rispetto a quello di altri paesi, quindi da questo punto di vista è implicita nel sistema bancario e come si è formato nel tempo che ne esca più forte. No, ho capito il suo ragionamento, quindi anche lei dice bancari ne usciranno meglio, forse non il Monte dei Paschi. Per quello che riguarda gli altri temi di borsa, oggi abbiamo visto andare essere debole di nuovo Mediaset, meno 4,30%, e poi il lusso non è che sia andato bene, World Duty Free, che è mezzo lusso, ma insomma meno 4%, Tod's meno 2, Moncler meno 1,90, mi manca Ferragamo, eccolo qua, meno 0,91%. World Duty Free è una storia a parte, sì, è successo, sì. Quindi la terrei distinta. Gli altri titoli li commenterei in tema. Lei si riferisce alle revisioni sui conti? È stato un significativo profit warning, sì, una brutta sorpresa sui contratti di affitto degli spazi spagnoli, su cui non c'era informativa precedente che deve essere data. Quando il mercato perde fiducia in un'azienda, nel suo management, questo diciamo, ci mette molto tempo a recuperarla. Perché evidentemente addirittura poi c'è un cambio di management, quindi diciamo la storia è completamente a parte. Sul tema del lusso, un effetto importante ovviamente i cambi, c'è stato un forte indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro nelle ultime settimane, al quale è seguito un rimbalzo, oggi viaggiamo intorno a 1,2780,

È la sagra del condizionale, 800.000 nuovi posti di lavoro, potrebbe essere così, forse ci sbagliamo per difetto. Fabrizio Forché, quali sono invece i dettagli, visto che Sole 24 Ore è abituato a guardare tra le righe, le cifre, i numeri, i dettagli appunto che zavorano la manovra al di là degli annunci? Fabrizio. Sì, no, uno dei dettagli è proprio questo, lì a Padova mi sembra essere stato un po' costretto dalla intervistatrice, dall'annunziata, a ribadire questa cifra di 800.000 posti di lavoro che aveva tra l'altro annunciato proprio in un'intervista a Sole 24 Ore. Ho l'impressione, da come la dice lo stesso Padova, non ne sia molto convinto. D'altra parte, quando si parla di assunzioni nel triennio, non capisco a cosa ci si riferisce. Dal momento in cui la misura, ed ecco uno dei dettagli che zavorra la manovra, la misura della decontribuzione totale vale solo per il 2015, vale solo per il 2015, sì. Ha poi un'estensione nel triennio, ma riguarda solo le assunzioni che vengono effettuate nel 2015. E quando parliamo di un dettaglio che zavorra la manovra, questo è uno di quei dei dettagli, perché non tanto dettagli, fammi dire, perché poi va a sostituire in realtà misure che invece sono strutturali, cioè sono stabili, che anche facevano sì che ci fosse una forte decontribuzione per le assunzioni, in questo caso di lavoratori che non lavoravano da 2 anni, mentre invece nella manovra si parla di lavoratori che non lavorano da 6 mesi. Quindi, come dire, sostituire una misura che è strutturale, anche se meno generosa, con una misura che vale solo un anno può essere quantomeno pericoloso, anche se la misura appunto che stiamo introducendo è più generosa di quella precedente. Questo perché la legge prevede anche il ripristino generalizzato della vecchia aliquota del 3,9, quindi abrogando questo, il taglio. Questo riguarda l'IRAP e in effetti. Partiamo da una cosa, l'intervento sull'IRAP è sacrosanto, l'intervento va nella giusta direzione ed è una cosa che le imprese chiedono da tempo e può essere un'opportunità in effetti per favorire gli investimenti, ed è anche un fatto di equità e di giustizia, perché pagare una tassa sul lavoro era un assurdo che fortunatamente questo governo toglie, per cui va benissimo, basta, però siamo chiari sulla portata dell'intervento, perché mentre facciamo questo intervento che vale circa 6 miliardi, poi togliamo lo sconto sull'aliquota complessiva dell'IRAP, che era stata portata a 3,5, invece ritorna al 3,9%, e quindi, come dire, una parte dell'intervento sull'IRAP si copre sempre attraverso invece un aumento di pressione fiscale sull'IRAP attraverso l'aumento dell'aliquota. E da lì un taglio che non andrebbe oltre i 3 miliardi e non i 5 annunciati. Sì, l'effetto complessivo finanziario dovrebbe essere intorno alla metà di quello annunciato, anche perché va considerato che evidentemente viene meno la deduzione dell'IRAP dall'imponibile IRES, a proposito di dettagli, che comunque faceva sì che non erano esattamente 6 miliardi o quelli che si andavano a pagare sul costo del lavoro. Ecco, voglio essere chiaro su questo. Voglio dire, la manovra va nella direzione giusta, dopodiché se tu dici che tagli l'IRAP di 5 miliardi e invece Sole 24 Ore, andando a guardare dentro le cifre, si accorge che siccome tu hai abrogato un altro taglio del 10% disposto in precedenza che abbassava l'aliquota al 3,5%, fa il saldo, la manovra c'è, non è che non ci sia, però non è da 5 miliardi sull'IRAP, ma è da 2,9. Basta capirsi sulle cifre, non è che sia sbagliato ridurre l'IRAP. Appunto, bisogna essere molto chiari su questo, cioè andare a vedere i dettagli che, come dire, depotenziano certe misure non significa criticare la misura andare stessa, a criticare cioè. la misura e la manovra nel suo complesso. La manovra, confermiamo che va nella giusta direzione, è una manovra che effettivamente dà e non toglie, anche per il semplice fatto che usa 11 miliardi abbia deficit, per cui è evidente che c'è, come dire, una restituzione di risorse verso l'economia, sempre che l'Europa ce lo faccia fare, ma c'è appunto un tentativo giusto di ridurre le tasse sia sulle famiglie sia sulle imprese e di tagliare le spese. Poi c'è questo grande capitolo dei tagli delle spese, dove se vuoi ne parliamo, ma insomma lì il discorso si fa. No, ma io li vorrei capire, insomma, molti ascoltatori dicono: ma perché le regioni non presentano loro un piano e si mettono d'accordo sui costi standard, così la facciamo finita? Perché quando vedo Chiamparino che suggerisce a Renzi dove tagliare nei ministeri, mi viene da dire la milanese o Felè fa il tuo mestiere, cioè ognuno faccia il suo lavoro, tu indica dove puoi tagliare nelle regioni oppure no, a meno che poi non si scannino tra di loro, perché se vogliamo i costi standard alcune regioni saranno penalizzate, però se parlano come corpo unico si presentino come corpo unico, se no ognuno vada nella sua direzione. Ma in effetti il punto è quello, cioè ci sono regioni che spendono per il proprio funzionamento 192 euro pro capite e altre che ne spendono 22. Sì, la Lombardia è 7 euro pro capite. Insomma, è chiaro che davanti a questi dati si capisce che c'è un problema tra le regioni che andrebbe probabilmente risolto, come dici tu, in sede di conferenza delle regioni, in sede tra i governatori. Poi il governo appunto non può intervenire lì dove c'è, cioè, la Costituzione assegna competenza alle regioni, si può fissare un taglio, poi i criteri con i quali le regioni operano al loro interno, all'interno delle regioni e tra regioni, probabilmente è giusto che sia la conferenza delle regioni ad occuparsi. Sì, io scommetto che se però provasse Chiamparino come conferenza delle regioni a portare un testo, diciamo una proposta unica al governo, si scannerebbero, perché le regioni, le abbiamo raccontate venerdì, dove tu hai 120-140 euro di costo pro capite rispetto alle regioni dove hai 20 euro pro capite, quindi dividendo per gli abitanti, o 7 euro come in Lombardia, era ospite Maroni, gliel'abbiamo riconosciuto, è ovvio che vanno alla guerra, è più facile attaccare il governo sotto il cappello complessivo delle regioni. Fammi dire però che il governo a sua volta deve dimostrare però tutta il coraggio e la forza di fare i tagli di spesa a livello centrale, sì, in maniera chirurgica e non anche lì ricorrendo a un taglio generico lineare del 10%. In questo senso in manovra finora, nella bozza che abbiamo letto, c'è una retromarcia rispetto a alcune tabelle preparatorie in cui invece il governo aveva fissato, certo, i tagli proprio missione per missione all'interno del bilancio. Io spero che quei tagli missione per missione se non avete fatto lavorare Cottarelli per niente, che già ha fatto un'intervista devastante sui capi di gabinetto e gli uffici legali dei ministeri. Un'ultima battuta, perché siamo in chiusura, Fabrizio, il bonus 80 euro, ma che è? Il nuovo coniglio dal cappello che spiazza un po' tutti, visto che non se n'era parlato prima, o c'è della ciccia? Questo per i neonati, dici? Sì, beh, per i neonati, sì. Guarda, io innanzitutto, prima di parlare del bonus di 80 euro, verificherei le condizioni finanziarie per farlo, e nel testo ultimo di manovra che ci è arrivata, questo te lo do come notizia, in realtà non si parla dei 90.000 euro di reddito di cui parlava la guerra, facendo un discorso secondo me molto ragionevole prima, ma in realtà ci si ferma a 30.000 euro, per cui, come dire, rispetto all'annuncio già si ridimensiona in maniera sostanziale la misura. Poi io, quando si parla di bonus bebè, mi chiedo sempre se non sia prioritario invece in questo paese fare un sistema di asili nido che garantisca. Sì, faccio anche notare, visto che mi alzi la palla, che molti ascoltatori dicono sì, vabbè, bonus bebè, però per i bebè già nati e con disabilità gravi, qui lo Stato continua a ridurre gli stanziamenti per le disabilità, gli insegnanti di sostegno, la 104 e quant'altro. Comunque, questo ci porterebbe troppo fuori. Grazie per aver chiarito che cosa vuol dire avere dettagli che cambiano l'impatto della manovra senza cambiare, diciamo, la struttura e l'idea della manovra stessa, che va nella direzione giusta. Nessuno si deve offendere, il taglio è di 2,9 invece che di 5 per quello che riguarda l'IRAP, e ragionamento analogo anche per la decontribuzione per i primi 3 anni, che da quello che capiamo, come spiegava Fabrizio Forché, varrebbe solo nel 2015. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.